in primo piano. Caso Bologna, resa di un sindaco, così apre il Corriere della Sera. Il PD sotto shock per la Puglia, ma la linea non cambia. La Puglia è l'altro grande tema dopo la vittoria di Vendola alle primarie. Bologna resta senza sindaco per Repubblica. Sex Gate, Bologna senza sindaco, La Stampa. Bologna, Del Bono si dimette, insomma. Come vedete c'è la prima pagina dell'Unità, anche un bobo, il personaggio di Staino, con un braccio fasciato, il naso rotto, l'occhio livido. Alla fine il sindaco si è dimesso. In Puglia le primarie le abbiamo fatte, l'importante è avere un buon antidolorifico. Insomma, un PD a pezzi, tanto che i giornali più orientati del centrodestra saltano sopra la notizia. Libero titola "Lo sfascio" e c'è la foto di un Bersani, tra l'altro a testa bassa, ripreso in una posa quanto mai emblematica in questo momento. Venere riduce la sinistra in cenere, così titola il giornale. Dimissioni sessuali del sindaco di Bologna. Allora andiamo a vedere proprio la vicenda di Bologna, qualche articolo. Tutti sostengono sostanzialmente che sia stato Romano Prodi, l'ex presidente del Consiglio, a scendere in campo in prima persona. Prodi in campo per convincerlo, questo è un enorme dolore. A pagina 3 del Corriere, Prodi, che era colui che l'aveva sostenuto moltissimo, Del Bono: Flavio, devi capire, così non regge più. La tua posizione si è fatta insostenibile, non la puoi giocare da solo questa partita. C'è una città da tutelare, te lo dico con enorme dolore, ma è così. Pare che questo sia stato il succo della telefonata di Romano Prodi a Del Bono, la telefonata che insomma ha convinto il primo cittadino a fare un passo indietro. Anche perché due giorni fa Del Bono diceva: non mi dimetto nemmeno se rinviato a giudizio, al che è partita dal presidente della regione Vasco Errani la richiesta a Romano Prodi di intervenire in prima persona. E tra l'altro, nel retroscena del Corriere, dice uno che lo conosce bene: a Romano deve essere costata moltissimo questa telefonata. Lui per carattere non infierisce su chi è in difficoltà. Basti pensare a come recuperò il suo ex portavoce Sircana dopo la storia del trans. Tra l'altro c'è un retroscena sempre sul Corriere al vaglio della magistratura, l'assessore con la bustarella, per carità, in senso buono, ma la busta pare gialla con soldi dentro, pare 5.000 euro in contanti, viaggiava per incarico di Flavio Del Bono nelle mani dell'assessore bolognese al welfare Luisa Lazzaroni ed era destinata a chi? A Cinzia Cracchi, vale a dire l'ex segretaria e compagna. Sarebbe stato lo stesso Del Bono a raccontarlo ai magistrati. Una volta diede 5.000 euro all'ex compagna e per farlo utilizzò da tramite, mettendo questi 5.000 euro in una busta, l'assessore Luisa Lazzaroni, che avrebbe ammesso di aver fatto quel favore all'amico, ma ha precisato: non ho mai saputo quale fosse il contenuto della busta. Insomma, ce n'è anche per capire dal punto di vista delle eventuali responsabilità penali cosa sta succedendo. In prima pagina di Repubblica Massimo Giannini fa una sorta di colloquio con lo stesso Prodi dal titolo "Ma chi comanda nel PD?". L'altro giorno, racconta Prodi, dopo che Giannini ricorda bastonato in Puglia, umiliato a Bologna, spiazzato nel Lazio, confuso ovunque, cioè questo è il ritratto del Partito Democratico, Romano Prodi, padre nobile del partito, osserva da lontano i tormenti della sua creatura e racconta: 3 settimane fa ero a Campolongo a sciare e in fila per lo Sclift la gente mi chiedeva: ma chi comanda nel PD? Bella domanda. Il professore non ha la risposta, anche se dice: ormai sono fuori e quando si è fuori, si è fuori. Tanto che qualcuno ha tirato in ballo anche lo stesso Romano Prodi, come dire: affidiamoci a lui come figura per rilanciare, magari proprio come sindaco a Bologna. Ma Prodi fa capire: non c'è assolutamente questa possibilità. Tra l'altro, vabbè, trovate un po' ovunque ora anche qualcuno ha raccolto lo sfogo di Cinzia Cracchi, ormai è definita il Cinzia Gate, no, questa vicenda. Cinzia Cracchi è l'ex compagna di Del Bono, nonché ex segretaria, ed è proprio colei che insomma ha dato un po' il via a tutto, dicendo: sono stata un po' in giro per il mondo, andate a indagare con quali soldi si pagavano questi viaggi che a volte erano vacanze, cioè se con soldi pubblici o soldi personali. Cinzia racconta al Corriere della Sera: Cinzia, sono frastornata, non volevo finisse così, volevo solo riavere il mio posto. Mi ritrovo giornalisti dappertutto, sotto casa, nell'androne fuori del palazzo, fuori dal lavoro, non ne posso più, fanno tutti gli amici, poi ognuno scrive, racconta quello che gli pare. Ma funziona così il mondo dell'informazione? Insomma, lo sfogo di Cinzia Cracchi. Mentre c'è chi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, come Gianfranco Pasquino, politologo, professore, che era anche candidato alle primarie, era candidato proprio alle comunali, tra l'altro guadagnò una percentuale piccola, al 2, qualcosa, ma questo impedì a Del Bono di vincere al primo turno, dovette andare al ballottaggio. È l'ennesima sola di Prodi, racconta al giornale. Il professore Pasquino oggi può dire: l'avevo detto e confermo. Poi dice: beh, ma l'ex sindaco lascia da innocente, questo lo dirà il processo. Pasquino è durissimo, è una brutta storia. Lui era l'assessore Del Bono, era l'assessore al bilancio, non poteva non sapere che quelli erano soldi pubblici. E poi il tempo che ha sottratto all'amministrazione, i suoi viaggi erano lunghi, sa? Una truffa ai cittadini. Basterebbe che si vedessero i suoi estratti conto, se ha pagato le cene con la sua carta di credito, le accuse cadranno e lui verrà assolto. Insomma, un Pasquino molto molto duro, che poi dice è stato un errore di Prodi proprio sponsorizzare Del Bono. Insomma, ma che il PD sia, qualcuno dice addirittura a pezzi, o comunque stia attraversando davvero un momento difficile, lo si vede anche dall'editoriale che in prima pagina del Sole 24 Ore, a firma Stefano Folli, va a scrivere così: c'era una volta il Partito Democratico. Questo è il titolo. Piove sul bagnato, come si dice in questi casi. Per il Partito Democratico la pioggia scende a Bologna non meno che a Bari. Sono vicende diverse, certo, ricorda Folli, eppure il legame esiste nella semplice successione di eventi pur diversi tra loro. Esiste soprattutto nella percezione dell'opinione pubblica. Là, vale a dire in Puglia, errori politici. Qui, a Bologna, un sospetto di immoralità. Ovunque l'impressione di un Partito Democratico talmente impigliato nei suoi problemi, nella sua crisi di idee e prospettive, da riuscire ad avere torto anche quando ha ragione. Tanto che conclude il suo editoriale Folli: i casi di Bari e Bologna sono parte di uno psicodramma di cui non si intravede la fine, ma potrebbero essere salutari se offrissero il destro per un cambiamento di rotta. Altrimenti, se la risposta sarà minimalista e all'insegna dell'ordinaria amministrazione, ci sarà da temere il peggio. E il peggio, insomma, lo dicono anche i giornali di sinistra, come il Manifesto. Il Manifesto, che mette in prima pagina una grande vignetta di Vauro, è anche emblematica e molto bella. C'è Vendola che sale sulla barca a vela Icarus, vale a dire quella di D'Alema, scalzando e buttando D'Alema in mare, e il titolo della vignetta è: Puglia, Vendola in poppa. Con un Vendola che governa la nave Icarus, e davvero col vento in poppa. Vabbè, trionfatore alle primarie, in qualche modo scalza il PD. La vittoria straripante di Nichi Vendola fa scattare il conto alla rovescia per Bersani, titolo al Manifesto. Tanto che all'interno, a pagina 6, c'è un altro titolo emblematico, invece che Democratici, Democrac. C'è la stessa foto che Libero mette in prima pagina di Bersani a testa bassa sugli scranni del Parlamento. Non li capisce nessuno. Questo è il titolo del Manifesto, riferito ovviamente ai dirigenti del PD. Tanto che un po' deve essere vero se sul Corriere della Sera si raccoglie lo sfogo di Francesco Boccia, vale a dire colui che è stato battuto da Vendola alle primarie in Puglia, e Boccia dice: ecco lo sfogo di Boccia, sciacalli contro di me, forse lascio il partito, tradito dall'area di Emiliano, vale a dire il sindaco di Bari, da Veltroni e da Franceschini nemmeno una chiamata. Sono sereno, davvero, mi sento con la coscienza a posto, il clima è quello, cioè metà partito ha sostenuto Vendola. Insomma, un po' aria da resa dei conti, il Partito Democratico, per esempio, su Il Fatto. e che come al solito quando serve poi non si trova da queste parti, eccolo qua, che esce fuori e spunta, il Fatto Quotidiano, PD, partito disastrato. Ci sono le immagini di Bersani, Del Bono, Vendola, secondo il Fatto di Padellaro e Travaglio, insomma sono questi i tre personaggi attorno ai quali il Partito Democratico si sta giocando l'immediato futuro, vale a dire il segretario Bersani, il sindaco di Bologna che si è dimesso e Vendola che ha dato una scoppola non indifferente al PD vincendo le primarie, sarà il candidato del centro-sinistra in Puglia. Solo uno sguardo per quel che riguarda la politica alle regionali al centrodestra, perché se no, insomma, ma sui giornali trovate, è inevitabile in questi giorni un po' tutta la resa dei conti, analisi su quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico. Segnalo un'intervista al ministro del welfare Sacconi sulla Stampa, in realtà parla molto di politica e soprattutto contesta la decisione dell'UDC di andare da soli in Puglia. L'UDC ha detto non andiamo né col PDL né con Vendola, per carità non l'avevamo già detto, hanno candidato Adriana Poli Bortone. Sacconi dice è un errore, Adriana Poli Bortone non verrà mai eletta, si tratta solo di un tentativo di favorire la sinistra da parte dell'UDC e quindi Vendola, ma fallirà. D'altronde, dice Sacconi, il sistema è irriversabilmente orientato al bipolarismo, oserei dire al bipartitismo, dunque secondo lui scelta sbagliata. L'attacco invece per quel che riguarda sempre le regionali, in questo caso ci spostiamo nel Lazio, l'attacco alla candidata Polverini viene sempre dalle colonne del Fatto, a firma Marco Lillo, il titolo lo trovate a pagina 7, La furbetta del palazzo. La Polverini ha mentito in un atto pubblico e ha evaso 19.000 euro nell'acquisto del suo appartamento. Così racconta Marco Lillo, vale a dire l'abolizione della tassa sulla seconda casa è la carta segreta di Renata Polverini. Inizia un po' con ironia Lillo. Tutti sanno infatti che il Cavaliere ha abolito l'ICI sulla prima casa, nessuno sa che la leader sindacale ha abolito le tasse di registro sulla seconda casa. Solo che l'imposta l'ha tagliata solo per sé, mentendo al fisco mentre gli altri italiani hanno continuato a pagarla fino all'ultimo euro. Dopo aver consultato numerosi atti di compravendita del candidato presidente, il Fatto Quotidiano ha scoperto che Renata Polverini ha mentito in un atto pubblico e ha evaso le imposte per circa 19.000 euro. Non solo, per risparmiare altri 10.000 euro in un secondo acquisto, ha architettato una doppia donazione con la mamma, realizzando un risparmio fiscale che puzza di elusione. Ovviamente immagino ci sarà oggi le smentite, eccetera, chissà anche per carte bollate, però questo scrive il Fatto, che avrebbe evaso 19.000 euro il candidato del centrodestra nel Lazio, vale a dire Renata Polverini. Lasciamo la politica, come vedete molto ricchi però i giornali di questo tema, il nostro sondaggio comunque ci torneremo alle 8.30 dedicato a Bologna, ha fatto bene secondo voi il sindaco Del Bono a dimettersi, dovete votare su radio24.it, sa di politica ma sa più che altro di casta e sa anche un po' di arrabbiatura, per usare un eufemismo, la notizia che trovate un po' su tutti i giornali, la leggo dal Corriere della Sera, badge clonati o di altri, così i commessi truffavano la Camera. È una storia di alcuni dipendenti della Camera dei Deputati che avrebbero usato dei badge di altri per timbrare poi fare cosa? Andare in giro, chi per pausa, chi per fare spese, insomma non stare al posto di lavoro. Il problema, come scrive il Corriere della Sera, è che questi dipendenti della Camera sono stati immortalati varie volte come vero emblema della casta. Volete un esempio? I commessi, quelli con la divisa nera che entrano in aula per strappare i cartelli dalle mani dei deputati quando la seduta si trasforma in rissa. All'inizio carriera guadagnano 2.398 euro lordi, dopo 35 anni arrivano a 8.675. Oppure i collaboratori tecnici, cioè quelli che hanno mansioni come la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento del Parlamento. La prima busta paga, che attenzione è di 15 mensilità, noi ci si ferma a 13, invece in quel caso sono 15 mensilità, è di 2.130 euro, a fine carriera balza a 9.938 euro lordi al mese. Ebbene, alcuni di questi, identificati dal Corriere della Sera, simboli della casta, pare che usassero un badge e poi timbravano e poi usavano un altro badge falso per uscire, ma far risultare comunque presenti e andare chi a prendere i caffè, chi a farsi una passeggiata, insomma assenteisti. Una vicenda sul Messaggero, il questore della Camera Colucci dice è un fatto gravissimo ma riguarda poche persone. Solo chiacchiere da stadio, così ieri Hillary Clinton, vale a dire il corrispondente insomma del nostro ministro degli esteri, ha definito le parole di Bertolaso. Bertolaso, il capo della protezione civile, ha scatenato un po' un putiferio definendo patetici gli interventi ad Haiti. Si trova ad Haiti in questo momento Bertolaso. E tra l'altro l'ha fatto proprio nel giorno in cui il nostro ministro Frattini doveva incontrare Hillary Clinton. E allora in questo incontro bilaterale Hillary Clinton ha proprio definito così Monday morning quarterbacking, cioè praticamente l'equivalente del nostro processo del lunedì, cioè le polemiche del lunedì mattina alle partite di football della domenica sera. E questo fa capire che insomma tutto il mondo è paese, anche al di là dell'oceano, dopo le partite, il giorno dopo ci sono quello che da noi è il processo del lunedì sostanzialmente. Solo chiacchiere da stadio, dice Hillary Clinton a Bertolaso, e anche Frattini tra l'altro si dissocia dicendo il governo italiano non si riconosce in alcune delle dichiarazioni di Bertolaso. Anche perché portare gli aiuti ad Haiti non è come portare gli aiuti all'Aquila. Una frase anche un pochino gelida, qualcuno ricorda, su Repubblica, da parte di Frattini a Bertolaso. E tra l'altro Bertolaso che si difende in qualche modo, è rientrato in Italia, peraltro Bertolaso spiega il senso delle critiche: ho detto ciò che è sotto gli occhi di tutti, le mie parole erano dirette più all'ONU che all'intervento dell'America. Sarkozy, se vi fa piacere, ieri è apparso un'ora in TV nel telegiornale più importante, tra l'altro sulla Stampa. Domenico Quirico racconta che questo accade spesso quando Sarkozy ha un'immagine un po' traballante, quindi va consolidata. È apparso al telegiornale, è stato 90 minuti in diretta, rispondendo anche a dei francesi insomma che chiedevano. E riguardo all'immigrazione, cito solo questa risposta perché è quella che ci riguarda, ha detto ci sono stati degli sbarchi in Corsica e Sarkozy ha detto non faremo certo come in Italia, sommersa di sbarchi, li cureremo e poi li rimanderemo ai loro paesi. E questo insomma ha dato la stura al titolo che trovate un po' sui giornali come La Stampa: stranieri non faremo certo come l'Italia, accogliamo i rifugiati politici ma i clandestini saranno rispediti a casa. Il tema è caldo, il tema è anche un tema europeo, non è solo un tema di Italia o di altri paesi. Segnalo dal Sole 24 Ore che oggi apre sul titolo sui bond greci, asta record di bond greci. E tra l'altro un inatteso successo del collocamento del bond quinquennale greco. Sapete che quel paese ha dei problemi finanziari enormi e dunque questo ha permesso di allentare un po' i timori sulla capacità di rimborsare i debiti da parte di Atene. Vi dedica a pagina 3 il Sole 24 Ore, insomma, sulla situazione del rischio debito nell'Eurozona, concentrandosi ovviamente sulla questione Grecia. Vi sottolineo anche un'intervista che il Sole 24 Ore ha fatto al ministro della Salute Ferruccio Fazio. Si parla soprattutto di debiti, anche in questo caso e deficit regionali. Sapete che la sanità occupa l'80% dei bilanci di qualsiasi regione, dunque sono tanti, tantissimi soldi. Ci sono molte regioni che sono in rosso e dice Fazio in questa intervista non ci saranno sconti sui deficit, sui piani di rientro serve il buon governo, gli impegni vanno mantenuti, dice alle regioni che sono in rosso, altrimenti prima verranno aumentate le tasse, poi ci sarà il commissariamento, quindi col federalismo il fallimento politico della regione. E io condivido assolutamente questa linea, le tasse sono propedeutiche al fallimento politico. E a Roberto Turno che dice beh ma così ci rimettono però i cittadini e le imprese insomma che non hanno i servizi sanitari adeguati e pagherebbero di più, risponde Fazio: il cittadino deve sapere che se paga più tasse è colpa dei governanti, anche se è costretto a migrare al nord in cerca di cure, fenomeno che vogliamo sconfiggere. Dunque se ci sono più tasse da pagare per colpa di una gestione sanitaria errata, i cittadini lo sappiano e si comportino di conseguenza, immagino, con i loro rappresentanti regionali. Trovate molto su Foto e Ricatti ricatti, foto ricatti, le nuove foto verranno, sono pubblicate da oggi, le troviamo sul Corriere della Sera in anteprima, le pubblicate da oggi. C'è un Lapo Elkan che in tutta fretta, le immagini sono un po' sfocate ma pare sia lui, verranno pubblicate da oggi, esce da una casa di periferia a Milano, corre sulla sua Ferrari gialla e sfreccia via nella notte. Il problema è che, secondo chi ha fatto queste foto, da dove usciva Lapo Elkan? Usciva dalla casa dove abita un transessuale che il giovane Lapo avrebbe frequentato per mesi. Così scrive Elvira Serra sul Corriere della Sera. Verranno pubblicate dal settimanale oggi, ma c'è l'anteprima sul Corriere della Sera. Le trovate a pagina 21. Quattro foto, una Ferrari gialla, Lapo Elkan che si tiene il cappello un po' a nascondersi, poi corre via, un'immagine rubata dal parabrezza che è pure bagnato, quindi si vede e non si vede. Per queste foto, tra l'altro, Lapo Elkan, sappiamo, avrebbe pagato 300.000 euro per evitare la loro pubblicazione. Chiudo con una segnalazione: Brunetta tutti i giorni è sui giornali per qualche motivo, ora sul giornale è perché ha annunciato "mi sposerò l'anno prossimo". C'è la foto di Brunetta con la futura sposa. Brunetta volerà all'altare con la sua Titti, non so, magari qualcuno è interessato a queste cose, quindi io cito in chiusura questo. Mentre per due che si sposano, due che forse si separano: Irene Pivetti, separazione in vista, con punto di domanda, scrive il giornale. Brambilla ha deciso, cioè Brambilla è il marito, vuole lasciare Irene Pivetti. Ripeto, se volete, a pagina 13 del giornale.